questa giornata nasce da una cosa molto semplice, cioè dal fatto che molti in questi ultimi mesi, soprattutto di transizione, di nota transizione del centro sociale da Via Orfeo appunto a Vicolo Bolognetti, ci hanno chiesto come potevano partecipare, quali erano i meccanismi anche, no, di inclusione rispetto alla vita collettiva di questo centro sociale. Allora noi abbiamo pensato di creare un momento quasi di collisione delle generosità delle persone che vogliono mettere un po' parte della propria individualità a favore, a servizio di un bene collettivo, e quindi di vedersi in una cosa che ci viene molto semplice, cioè un'assemblea dove poter capire meglio i meccanismi che regolano appunto questa vita collettiva, che immediatamente poi si pongono anche l'ambizione di cambiare nel momento in cui entrano poi in contatto con il nuovo. Noi l'abbiamo detto, vogliamo incontrare chi ha voglia di trasformare, trasformandosi, no? E in primis anche noi siamo chiamati appunto anche a ricalibrare e riattualizzare sempre in virtù del nuovo il nostro fare. Questo è un po', come dire, la cosa molto semplice e allo stesso tempo molto complessa che il 19 ha come ambizione. Da un po' di tempo, correggimi se sbaglio, quindi vi state interrogando su un nuovo modo di fare un centro sociale, insomma non è più un'idea tradizionale come quella che abbiamo conosciuto fino adesso, ma assume forme nuove. Beh, come dire, il fatto che lo spazio di La Baia, sia in Via Orfeo ma anche adesso in Vicolo Bolognetti, ci dà la possibilità di incontrare centinaia se non migliaia di persone ogni volta a settimana, ci è anche chiamato appunto anche a ripensare, ma è, come dire, poco lucido chi non lo fa, insomma il concetto di centro sociale. Lungi dall'aver trovato, come dire, una risposta, anche laddove questa domanda sia sensata, però ci piace, come dire, non dare mai nulla per scontato ed essere appunto in movimento, no? Anche rispetto alla propria identità, che non ci piace concepire come qualcosa di monolitica, ma ci piace concepirla come qualcosa, no, anche di fluida, attuale alla fase. C'è una città che sta cambiando, che porta con sé anche nuove sfide. Vicolo Bolognetti in primis per noi rappresentava questa cosa. Abbiamo voglia e cuore di buttarci in queste sfide e vogliamo soprattutto incontrare tante tante a farlo con noi. Quali sono, come dire, i valori non negoziabili di Labà? Sono mai retorici, quello di dire di essere appunto il valore fondante dell'antifascismo, dell'antirassismo, dell'antisessismo, della solidarietà tra mondi apparentemente lontani. Penso immediatamente alla lotta in Kurdistan, penso appunto anche alla rivoluzione culturale che il movimento Non Uno di Meno sta portando avanti, e che immediatamente sollecita anche i soggetti che agiscono nel sociale e non solo, comunque a ripensarsi, anche scrollarsi di dosso vecchie abitudini magari anche non troppo consapevoli, a favore insomma anche di una trasformazione, di un'emancipazione reale anche del pensiero e del fare. Queste sono un po' le cose che ci guidano, soprattutto, come dire, al di là dei valori, ciò che ci interessa è una società più giusta, un mondo più sostenibile per tanti e tante, non invece, come dire, una disuguaglianza che cresce giorno dopo giorno e che acuisce la forbice, il divario tra i ricchi e i poveri. Giovedì come si svolgerà l'iniziativa? Inizieremo circa alle 18:30, appunto in degli interventi appunto che spiegano un po' anche il motivo, il perché ci ritroveremo lì, speriamo in centinaia e centinaia di persone, per poi, come dire, anche lasciare spazio a quelle che possono essere anche domande per conoscere meglio la realtà di cui che si è venuti ad ascoltare. Quindi, come dire, non c'è nulla di stabilito, stiamo pensando anche dei momenti successivi, anche meno formali, di un'assemblea che sappiamo che possono anche un po', come dire, atrofizzare anche la parola, però per conoscerci meglio, per anche, come dire, spiegare in maniera più formale quali sono ad esempio i meccanismi che regolano le aperture di questo spazio sociale, che ripetiamo è aperto banalmente tutti i giorni, diversamente dalla caserma di Via Orfeo, e tante altre cose ancora. Ti faccio un'ultima domanda, ti chiedo una riflessione più generale, perché sembra che la BA, forse involontariamente, spacchi il Partito Democratico nell'atteggiamento da tenere appunto con voi. C'è un atteggiamento più dialogante, abbiamo visto invece recentemente dichiarazioni del consigliere comunale Persiano che addirittura si auspica che i bambini della scuola vicina non entrino mai in contatto con voi. Come leggete queste cose? Penso penso che certe cose non si debbano nemmeno commentare, altrimenti si rischia di anche di farle, dargli la dignità di essere vicina al reale. Detto questo, credo che la BA risulti al centro, ma lo era anche prima, tutto nel passaggio dello sgombero, anche, no? Del pre-sgombero, il post-sgombero, però al centro di fuochi incrociati, tutti interni al Partito Democratico, che a noi interessano molto poco, nel senso che la BA semplicemente rappresenta il caso Sbelli all'interno del partito, dentro al quale noi non ci inoltriamo. Noi continueremo e continuiamo quotidianamente a fare quello che stiamo facendo, senza paura, senza timidezza e senza, come dire, anche cedere alle provocazioni, perché queste sono anche di discorso che si prova ad insinuare rispetto alla città. Chi ci frequenta, ma anche chi, come dire, lascia da parte i pregiudizi, sa benissimo quello che facciamo, e le cose sono molto trasparenti e possono scoprirlo quotidianamente nelle decine e decine di attività che settimanalmente facciamo. Quindi, come dire, l'invito è anche un po' anche qui a scrollarsi di dosso narrazioni tossiche, invece, come dire, a esperire il reale, perché poi quando un amministratore vorrebbe rappresentare la città, non c'è modo peggiore di farlo se non parlare per ideologismi e non invece, come dire, ascoltare quello che si muove, l'innovazione che la BA porta con sé.